Buongiorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Per le nomine al Teatro Regio è indagato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. L'accusa è abuso d'ufficio, è un atto dovuto, non lascio, dice lui. 35 arresti per mafia a Messina, in manette anche un consigliere comunale, avrebbe orientato il voto insieme alle cosche, un fedelissimo di Francantonio Genovese. Sulle unioni civili ancora polemiche, Salvini invita i sindaci a non applicare la legge, la senatrice Michela Marzano lascia il PD, norme troppo morbide secondo lei. È stato votato l'impeachment per la presidente brasiliana Dilma Rousseff, scatta la sospensione per 180 giorni, non sarà in carica durante le Olimpiadi di Rio. Tremano le università dopo la sentenza di un giudice di Pavia. Tasse troppo alte, Ateneo condannato a risarcimento di 8 milioni di euro agli studenti. Acqua contaminata alle porte di Bari, malori per centinaia dei 20.000 abitanti di Casa Massima. Si va avanti con le autobotti. Il prezzo del biglietto del cinema che varia in base al film, agli attori, al tempo e alla temperatura, alla data di prenotazione. Al Plinius di Milano scatta la sperimentazione per la prima volta in Italia. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, e poi ovviamente se volete a fine trasmissione andate a scaricarvi il podcast e iscrivetevi. Partiamo dunque da quello che succede a Parma. Dopo quello di Livorno è indagato un altro sindaco 5 Stelle, è Pizzarotti. L'inchiesta ruota intorno al Tempio della Lirica cittadina, al Teatro Regio, e oggi la Gazzetta di Parma ne ha svelato gli sviluppi. Il sindaco di Parma grillino Federico Pizzarotti, scrive il giornale, è indagato per abuso d'ufficio. Indagato anche un altro membro della Giunta 5 Stelle emiliana, l'assessore alla cultura Laura Ferraris, originaria di Torino. La Gazzetta di Parma riporta anche tre membri del CDA del Teatro Regio sotto inchiesta: Silvio Grimaldeschi, Marco Alberto Valenti e Giuseppe Albenzio, che si dimise un mese dopo la nomina. Il fascicolo fu aperto in autunno dalla procura dopo gli esposti del senatore parmigiano PD Giorgio Pagliari. Si mira ad accertare se ci siano state irregolarità nell'iter di nomina arrivata dopo un bando che aveva coinvolto 7 candidati, concluso senza esito. Una settimana dopo questa conclusione, il CDA nominò direttore generale Barbara Meo, all'epoca direttrice del Teatro del Carretto di Lucca, e Barbara Minghetti nel nuovo ruolo di consulente del Teatro Regio, di cui il primo cittadino guida la relativa fondazione. Sono tranquillo, è un atto dovuto a seguito degli esposti del Partito Democratico che rispetto pienamente. Questa è la replica di Pizzarotti su Twitter. Il primo cittadino del Movimento 5 Stelle spiega: era già emerso che ci fossero indagini in corso. Il mio impegno, conclude Pizzarotti su Twitter, continua senza esitazione. E il secondo sindaco grillino a finire nel mirino della magistratura pochi giorni fa era finito nei guai, Filippo Nogarin, per il fallimento dell'azienda dei rifiuti di Livorno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono 35 arresti a Messina per mafia, tra loro un consigliere comunale che avrebbe cercato di orientare il voto con l'aiuto delle cosche durante la campagna elettorale nella quale correva per il Partito Democratico. L'hanno chiamata Operazione Matassa. Le attività illecite contestate sono tutte riconducibili al reato di associazione mafiosa. Estorsioni, spaccio, controllo di appalti e attività economiche. 26 persone sono finite in manette, 9 ai domiciliari, sequestrate 4 società che finanziavano attività illegali. In carcere anche Paolo David, consigliere comunale di Forza Italia, che fu in passato capogruppo del PD. Fedelissimo del deputato nazionale di Forza Italia, Francantonio Genovese, anche lui ex PD. David, professione bancario, fu promotore del transito di massa dal Partito Democratico a Forza Italia di altri 15 consiglieri comunali. Fra il 2012 e il 2013 avrebbe cercato di orientare il voto degli elettori in accordo con esponenti di famiglie mafiose. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani dell'approvazione, le unioni civili restano al centro del dibattito. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, c'è un impatto sui conti ed è inevitabile che ci sia, ma è nell'ordine di qualche centinaio di milioni di euro ed è quindi sostenibile. A dirlo il presidente dell'INPS Tito Boeri all'indomani dell'approvazione delle unioni civili che portano conseguenze per le pensioni di reversibilità per le coppie gay. Abbiamo fornito, spiega Boeri, alcuni elementi di valutazione alla commissione parlamentare ed i costi non si sono rilevati così elevati, sono sostenibili. Ci siamo infatti allineati, conclude, all'esperienza tedesca, perché la legislazione tedesca era simile a quella italiana. Da parte del PD invece c'è da segnalare l'addio al partito della deputata Michela Marzano per lo stralcio della Step Child Adoption, una legge troppo morbida per Marzano. Dall'altra parte invece Forza Italia, Area Popolare, Fratelli d'Italia tornano insieme per condividere la battaglia contro le unioni civili all'indomani dell'approvazione definitiva della legge in una conferenza stampa qui a Montecitorio. Deputati e senatori hanno annunciato la nascita di un comitato presieduto da Eugenia Roccella, ricordiamo già portavoce del primo Family Day e già poi autrice in parte della legge 40, proprio per richiedere il referendum abrogativo sulla parte del DDL che disciplina le unioni civili. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. L'economia, è stato presentato oggi un rapporto sul mercato immobiliare, sentiamo. Più 3,5% nel 2014, più 6,5% nel 2015. Il mercato delle compravendite immobiliari si conferma in salute dopo il vero e proprio crollo del 2007. Secondo il rapporto realizzato dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con ABI e relativo al settore residenziale, le operazioni totali sono state lo scorso anno 449.000. Salgono le compravendite, diminuiscono i prezzi delle abitazioni, il valore degli scambi supera i 75 miliardi. Quasi tutte le regioni hanno realizzato performance positive. A guidare la classifica è la Lombardia. Il ricorso ai mutui resta molto forte, coprendo il 45% degli acquisti. Sotto la lente di ingrandimento, per la prima volta, anche il mercato degli affitti, che vale quasi 5 miliardi. Così il vice direttore dell'Agenzia delle Entrate, Gabriella Alemanno. Lavoreremo sicuramente per rendere sempre più trasparente anche questa fetta di mercato. Dall'altra parte bisogna sensibilizzare vengano messi tutti quegli elementi che possono aiutare noi a rendere il rapporto sempre più chiaro e trasparente. Gli affitti più cari, e non è una sorpresa, si segnalano a Milano, Roma e Firenze. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E occupiamoci ora di RCS. Il prezzo è congruo e non verrà modificato. Così Urbano Cairo ribadisce, il valore dell'offerta su RCS resta com'è, nonostante le pressioni del mercato e il parere di alcuni soci, i quali, per consegnare le azioni del gruppo di Gazzetta e Corriere, vorrebbero una cifra più alta. Quindi la stoccata al CDA. Bocciare l'OPS senza aver visto il prospetto non è stata una cosa di altissimo livello, spiega Cairo nel corso dell'assemblea degli azionisti. RCS non è mai stata gestita da un editore, prosegue il patron di Cairo Communication. Lavorando bene, come abbiamo fatto noi in questi 20 anni, si può creare valore e non distruggere ricchezza. RCS negli ultimi 5 anni ha bruciato 10 milioni al mese, ha accumulato 1,3 miliardi di perdite e continua a perdere. Contenti loro. Infine, una precisazione. L'obiettivo da raggiungere resta il 50% del capitale più 1. Poi, come ha detto Cairo nei giorni scorsi, si accontenterebbe anche di un 35%. 5% più un'azione per avere il controllo di fatto. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occupiamoci adesso delle amministrative, perché è stato a poche settimane spunta il caso della presunta incandidabilità di Beppe Sala a Milano. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, la campagna elettorale entra in una nuova e più aspra fase, gli attacchi e le controrepliche diventano di sicuro colpi più duri. Prima, come ricordavi, la polemica sulla presunta incandidabilità del candidato di centrosinistra, ora poco fa proprio la diffusione dei dati di bilancio di Expo, motivo di una prolungata discussione negli ultimi mesi. Partiamo proprio da qui, pochi istanti fa la società Expo ha diffuso i dati e ha fatto sapere che ha chiuso con un patrimonio netto di 23 milioni, che il tutto è costato 2.285 milioni, che ha chiuso con un patrimonio che è tutto è costato 2.254 milioni e che invece è stata messa in liquidazione per 2.285 milioni. Dunque una chiusura in positivo con un patrimonio netto di 23 milioni e un'assemblea convocata per il 27 maggio, quindi prima delle amministrative attive del 5 giugno. Questi dunque dei dati poco fa diffusi e, come dicevamo, elemento erano stati a lungo di discussione, ma nelle ultime 24 ore si è alimentata un'altra polemica riguardante l'incandidabilità presunta del candidato di centro-sinistra. Mi fanno un favore, sono accuse che arrivano da professionisti dell'antimafia, ha commentato questa mattina Beppe Sala in risposta, che si dice sereno dopo i dubbi sollevati dalla settimanale Panorama, il cui vice direttore tra l'altro è in corsa con Stefano Parisi, centrodestra, per la testata Mister Expo. Non sarebbe potuto essere candidato a sindaco perché non si sarebbe mai dimesso da commissario del governo per Expo, e la sua lettera di dimissioni non basterebbe. In realtà le smentite arrivano sia da Palazzo Chigi, che cita la lettera del 15 gennaio di Sala, ma pure dall'autorità anticorruzione di Cantone. Ugualmente i 5 Stelle annunciano ricorso al TAR, mentre non crede a queste azioni di discredito, per usare le sue stesse parole, lo stesso Parisi, mentre l'ex Mister Expo rievoca analoghi attacchi in campagna elettorale della Moratti a Pisapia, e dall'altra parte i problemi interni al centrodestra, anche con la candidatura di un leghista antisemita. Insomma, la campagna elettorale entra in una fase più velenosa, Simona. Grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Una piccola correzione, ce l'hanno fatto notare un paio di ascoltatori scrivendoci su WhatsApp. È corretto, abbiamo commesso un errore quando abbiamo parlato della vicenda di Filippo Nogarin di Livorno. L'azienda dei rifiuti di Livorno non è fallita, ma è andata in concordato preventivo proprio su proposta dello stesso Nogarin. Nogarin che è indagato, lo ricordiamo tra l'altro, per bancarotta fraudolenta in merito proprio a questa vicenda. Noi adesso andiamo all'estero e parliamo dell'impeachment per la presidente brasiliana Dilma Rousseff, che è arrivato, è stato votato dai senatori, accusata dall'opposizione di aver falsificato i bilanci dello Stato per mascherare la recessione del paese nel corso della campagna elettorale per la sua rielezione del 2014. Scatta ora la sospensione per 180 giorni e quindi anche durante le Olimpiadi di Rio. Abbiamo in diretta con noi per un commento Paolo Magri, che è direttore dell'ISPI. Magri, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Allora, come possiamo valutare questo momento della Rousseff e del Brasile? Cronaca di un impeachment annunciato, per usare letteratura dell'America Latina. Lo sapevamo che sarebbe finita così, nel senso che i voti erano certi al Senato. La vera questione adesso, la vera domanda, è cosa succederà ora al Brasile, cosa succederà con il governo di Temer, il vicepresidente che subentra per 6 mesi e probabilmente resterà anche dopo, perché è molto probabile che questo Senato confermi poi l'impeachment fra 6 mesi. Se riuscirà a dare la scossa a un'economia che ne ha un gran bisogno, se riuscirà a fare le riforme di cui il Brasile ha un gran bisogno, senza rivolte popolari, perché ci saranno i nemici di Temer, cioè gli sostenitori di Dilma, che scenderanno in piazza, e quando inizieranno a mordere con le pensioni e col mercato del lavoro, anche altri ingrosseranno le fila. Questo per quanto riguarda le prospettive un po' più a lungo termine. Per quelle un po' più a breve, ossia le Olimpiadi, Magri, lei come la vede? Non è prevedibile, non ci sono elementi di preoccupazione particolare, nel senso che 2 anni fa il campionato del mondo di calcio, il Brasile non era in crisi e ci sono state proteste e violenze. In questo momento il Brasile è in crisi, non necessariamente si ripercorreranno proteste e violenze, perché tutto sommato l'impeachment ormai è avvenuto, potrebbe esserci un clima rilassato. Tra l'altro il paese si presenta alle Olimpiadi molto più preparato, con infrastrutture, come impianti, di non quanto fu con i campionati, dove vennero concluse le opere 2 giorni prima o la sera stessa. Quindi non credo che questo sia l'elemento determinante per spiegare quanto succederà alle Olimpiadi fra 2 mesi. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi. La cronaca con la morte di un bambino di 6 anni nel Mantovano. Era scomparso ieri pomeriggio a Guidizzolo, in provincia di Mantova, il piccolo Jassan, 6 anni, figlio di una coppia di indiani. Una notte di ricerche e poi il corpo privo di vita del bambino è stato trovato in un canale alla periferia del paese. Il canale scorre proprio poco distante dal luogo, la scuola elementare, dove il bambino ieri alle 16 era stato visto per l'ultima volta. Al momento l'unica ipotesi è quella della disgrazia. Yashan si sarebbe avvicinato troppo alla sponda, scivolando. La corrente lo ha poi trascinato per alcuni chilometri, dove è stato ritrovato. Il colonnello dei carabinieri di Mantova, Aniello Mautone. L'ipotesi al momento assolutamente più plausibile è la disgrazia. perché non c'è nulla che faccia pensare diversamente. Per ritrovarlo si erano mobilitate le forze dell'ordine, circa 200 volontari, fra cui anche l'ampia comunità indiana del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ex capo di CL a Cremona risarcisce 5 vittime di pedofilia. Il processo riprenderà il 29 giugno con il rito abbreviato davanti al Tribunale di Cremona. La difesa ha evitato la costituzione di parti civili e questo perché Don Mauro Enzoli ha deciso di risarcire 5 delle sue vittime. Ad ogni famiglia andranno 25.000 euro per gli abusi subiti da 5 ragazzi. 8 gli episodi di violenza contestati all'ex capo carismatico di Comunione e Liberazione commessi tra il 2004 e il 2008. Abusando della sua autorità di allora, sia nell'ufficio dove teneva gli esercizi spirituali, sia negli alberghi dove CL portava i ragazzi in vacanza. All'epoca il religioso era il parroco della chiesa della Santissima Trinità a Crema e rettore del liceo linguistico Shakespeare. Sospeso a divinis da Papa Ratzinger nel 2012, il 66enne non dovrà invece rispondere di altri episodi, una quindicina, essendo ormai i reati prescritti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport con gli europei di nuoto che si stanno svolgendo a Londra e che hanno visto ieri le ragazze di Tuffi soprattutto andare bene, Carlo Genta, no? Benissimo, Tania Cagnotto, sempre lei, una delle nostre grandi speranze nel cammino verso Rio. Si è confermata la più forte nel trampolino da un metro e ha vinto anche una medaglia d'argento in coppia con Verzotto, sempre nella stessa specialità. Dunque, Tania Cagnotto sarà una delle grandi star della nostra spedizione olimpica a Rio. È nel momento migliore della sua carriera e dovrebbe essere, tutti speriamo che diventi, la sua Olimpiade, oltre ovviamente a quella di Sua Maestà Federica Pellegrini, ma anche nelle piscine olimpiche avremo diverse carte da giocarci, Simone. Ti ringrazio, grazie Carlo, ovviamente speriamo in bene per Rio. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia e partiremo da Casa Massima. Siamo alle porte di Bari, dove centinaia di persone sono state male perché nei rubinetti è entrata un'acqua che non doveva entrare. Parleremo della sentenza del Consiglio di Stato, vi abbiamo detto nei titoli, di un giudice di Pavia. In realtà non è così, è del Consiglio di Stato che ha condannato l'Università di Pavia a risarcire con 8 milioni di euro gli studenti per le tasse troppo alte, tremano anche gli altri atenei, e poi parleremo di molte altre cose, tra cui anche questa vicenda del cinema di Milano che ha deciso di mettere i biglietti variabili, ossia a seconda per esempio del tempo, di che tempo fa, dell'orario, del tipo di film, appunto il biglietto varierà di prezzo. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'indagine sul sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, accusato di abuso d'ufficio. Abbiamo parlato dell'indagine di Messina che ha coinvolto un consigliere comunale ex PD che avrebbe orientato il voto insieme alle cosche. Abbiamo parlato di unioni civili, di Brasile con il voto dell'impeachment per la presidente Dilma Rousseff. E adesso iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia, iniziando da un luogo alle porte di Bari. Si tratta di Casa Massima e abbiamo in linea il sindaco Vito Cessa. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Da una settimana l'acqua che passa nei vostri rubinetti non solo non si può bere, ma da quel che ho capito ci sono state centinaia di persone che sono state male, no? Sì, diciamo che da praticamente venerdì c'è una situazione di grave disagio e preoccupazione a Casa Massima. Abbiamo quest'acqua contaminata da vari ceppi batterici che non la rende potabile. Ma chiaramente l'allarme è scattato tra venerdì e sabato e chiaramente, evidentemente, la contaminazione era antecedente, per cui abbiamo avuto tantissimi casi di gastroenterite e alcuni ricoveri ospedalieri. Addirittura alcuni ricoveri. Quanti ricoveri in tutto, sindaco? Ma, oggi siamo intorno alla decina, forse qualcosa di più. Sicuramente è tutto da verificare rispetto alle cause, però almeno a livello di anche rapporti da parte dei medici di medicina generale, abbiamo tantissimi casi, centinaia di casi di gastroenterite su tutto il territorio comunale. Senta una cosa, ma come mai? Senta, l'acquedotto pugliese, che fornisce appunto la rete idrica, parla di una contaminazione ambientale, per verosimile rottura di una condotta, e questo ha portato chiaramente alla contaminazione dell'acqua potabile. E riguarda solamente il vostro territorio, da quel che lei è riuscito a capire? Sì, sono in corso degli accertamenti anche sui comuni limitrofi. In realtà la prima nota dell'acquedotto pugliese parlava di una zona circoscritta del mio paese, tant'è che la mia prima ordinanza era stata limitata ad alcune strade. Sì. In realtà non ero tranquillo e mi sembrava strano che soltanto un settore del paese potesse essere contagiato, ecco. Per cui ho fatto una raccomandazione pubblica ai cittadini di non utilizzare in via precauzionale l'acqua potabile. E difatti il giorno successivo a Dottor Pugliese mi diceva vi ha comunicato che in realtà è un po' esatto, più esteso di quanto non pensate. Esattamente, quindi la mia ordinanza successiva è stata quella di estendere a tutto il territorio comunale il divieto dell'uso ai fini. Ma come intendono risolverla e soprattutto con che tempi? Perché immagino che sia piuttosto disagevole la situazione, perché insomma c'è un sacco di gente con una gastroenterite e che in più non può usare l'acqua. Adesso io non voglio scendere nei dettagli, però deve essere piuttosto problematico. Ma guardi, il disagio è molto grosso perché purtroppo all'inizio la comunicazione non è stata chiara e rispetto alle cause che avevano provocato appunto la contaminazione e rispetto anche ai patogeni che avevano contaminato l'acqua, per cui questo ha creato in paese un clima di grosso timore, di sospetto, di paura, di inquietudine, per cui nonostante le mie prescrizioni, io sono stato in contatto strettissimo con la ASL che mi ha dato indicazioni certe su come comportarsi, nonostante questo la gente chiaramente viveva un clima di paura e quindi ha comportato un grosso disagio. Un disagio che a tutt'oggi persiste. Diciamo che. Ma non ho capito, ma vi hanno dato dei tempi oppure no? Vi hanno detto adesso risolviamo, no? Allora, diciamo che loro hanno subito interrotto la condotta contaminante, per cui è stato il primo intervento che mi hanno riferito aver fatto. È chiaro, ci sono dei tempi tecnici perché poi tutto il condotto idrico si torni ad essere pulito, diciamo così. Ci sono dei tempi anche per avere gli esami di laboratorio perché diciamo le colture devono essere perché non si sa nemmeno da cosa dipenda in sostanza. No, diciamo i ceppi batterici sono stati individuati, sì. Assolutamente sì. E loro parlano, io di questo confermo anche da parte dell'ASL, di una contaminazione ambientale, non fognaria. Ambientale. Vabbè, vedremo come evolverà la vicenda e speriamo che appunto questa cosa non si estenda ad altri comuni limitrofi. Grazie a Vito Cessa, sindaco di Casamassima, per essere stato con noi. Mattia Sguazzini è dell'esecutivo nazionale dell'Unione degli Universitari, è il membro del CDA dell'Università di Pavia, ex segretario dell'Unione degli Universitari dell'Università di Pavia ed è in linea con noi. Sguazzini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Per parlare di una sentenza di qualche giorno fa, una sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato, e quindi dalla Puglia ci spostiamo in Lombardia, che ha condannato l'Università di Pavia a risarcire gli studenti con 8 milioni di euro per gli anni tra il 2011 e il 2012 per le tasse universitarie. Sostanzialmente, la faccio molto semplice, troppo alte, poi lei mi spiega meglio. Ovviamente questa cosa immagino stia creando il panico tra i rettori di tutta Italia, perché se partono ricorsi di questo tipo su altre università finiscono fallite. Ci spiega su che base avete vinto il ricorso? Allora, in realtà è una questione tecnica, anch'io cerco di semplificare. Allora, in realtà i ricorsi sono tre, perché quello sulle tasse del 2010 l'avevamo vinto a marzo, solo che è un caso particolare, adesso ci arrivo. A maggio, il 6 di maggio, venerdì, sono uscite le sentenze del Consiglio di Stato del 2011 e del 2012. La cifra complessiva è di 8 milioni di euro su soli tre anni. E questa cifra qua, praticamente, sono i soldi chiesti in più agli studenti rispetto a un limite imposto da una legge. La legge è un decreto presidenziale del 97, che dice le tasse degli studenti, tutte le tasse studentesche, non possono superare il 20% di quanto l'università riceva dallo Stato, quindi con il fondo di finanziamento ordinario. Cioè, la faccio semplice, mettiamo che l'università riceva 10 milioni di euro dallo Stato, le tasse non possono essere più di 2 milioni di euro, così semplifichiamo per i nostri ascoltatori. Esattamente. Praticamente nel 2010 l'Università di Pavia ha deciso di innalzarle, le tasse, Noi in quel consiglio di amministrazione avevamo votato contrario, addirittura c'erano gli studenti che spingevano a tal punto che noi siamo arrivati a occupare quel consiglio di amministrazione. A questo punto le sentenze hanno dimostrato che avevamo ragione. Abbiamo agito legalmente, abbiamo vinto i 3 ricorsi al TAR prima, adesso siamo arrivati in Consiglio di Stato e sul 2010 e sul 2011 vigeva solo quella legge. Quando erano usciti quei ricorsi al TAR, Monti è intervenuto creando la legge, inserendo dentro la legge 135, quella della spending review per intenderci, sì, il fatto che le tasse degli studenti in corso dovessero essere divise da quelli fuori corso. Sì. Il piccolo particolare è che la sentenza del 2012, il motivo per cui fa paura ai rettori adesso, è che specifica che non è uno scorporo matematico, quindi non è che i rettori possono prendere o i consigli di amministrazione possono scindere le tasse dei fuoricorso e quelli degli studenti in corso, ma devono proprio creare un metodo interno all'università. Sì. Tale per cui ci sono due metodi diversi di calcolo. Cosa che sostanzialmente non hanno fatto. Quindi, non hanno fatto. Quindi la sostanza è che adesso teoricamente le università, almeno quelle che non hanno provveduto ad effettuare questa divisione con un meccanismo interno, perché magari qualcuno l'avrà fatto, insomma i più avveduti tra i rettori magari lo avranno fatto, rischiano di trovarci con una serie di ricorsi e di dover pagare decine di milioni di euro a questo punto. Sì, agli studenti. Sono decine di milioni che si rischiano di dover pagare, ma a voler vedere la colpa non è delle singole università, perché questi innalzamenti di tasse sono dovuti al fatto che c'è un sottofinanziamento delle università, perché il fatto che un'università debba sostentarsi per oltre un quinto del proprio bilancio sulle tasse studentesche fa capire quanto sia pesante la contribuzione degli studenti per l'università, e 8 milioni su 3 anni di solo sforamento. Sì. Quindi cioè fa capire quanto siano in realtà pesanti per il bilancio di un'università, quanto pesino le tasse sulle casse dell'università. Sì, stessa. Chiaramente. Chiaramente. Io la ringrazio, grazie a Mattia Sguazzini per essere stato con noi, ci ha aiutato un po' a spiegare questa cosa e magari nei prossimi giorni, se riusciremo, andremo anche un po' a scavare in altre università per sapere che cosa succede. Noi adesso ci fermiamo, come sempre andiamo a sentire cosa succede sui mercati oggi e poi subito dopo rientreremo con due storie. La prima è un po' più leggera, è quella di questo cinema milanese che primo in Italia ha deciso di un nuovo calcolo, un nuovo sistema di calcolo per i biglietti, con una sperimentazione che sarà il venerdì. E questo sistema di calcolo si basa su un algoritmo che tiene conto, per esempio, della temperatura atmosferica fuori. Insomma, piove, probabilmente il biglietto costa di più, oppure c'è il sole e costa di meno. E pomeriggio costa di meno, di sera costa di più. E poi vi avevamo raccontato nei giorni scorsi della vicenda della scuola elementare che voleva portare per l'ora di religione i bambini in visita al centro islamico proprio di fronte. 11 genitori avevano detto no. Bene, oggi la gita si è svolta e quindi parleremo con l'insegnante e ci faremo raccontare com'è andata. A tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: per le nomine al Teatro Regio indagato il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, l'accusa è abuso d'ufficio, è un atto dovuto, non lascio, dice lui. Sulle unioni civili ancora polemiche, Salvini invita i sindaci a non applicare la legge, la senatrice Michela Marzano lascia il PD, dice norme troppo morbide. 35 arresti per mafia a Messina, in manette è finito anche un consigliere comunale, avrebbe orientato il voto insieme alle cosche nella campagna elettorale del 2012-2013, quando correva per il Partito Democratico, un fedelissimo di Francantonio Genovese. È stato votato l'impeachment per la presidente brasiliana Dilma Rousseff, scatta la sospensione per 180 giorni. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia. Salvatore Dattilo è titolare del Cinema Plinius di Milano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Siete i primi in Italia a sperimentare un nuovo modo per prezzare i biglietti del cinema, non più, che ne so, il prezzo il mercoledì che è più basso e tutto il resto dei giorni normale, o un prezzo il pomeriggio e un prezzo la sera, ma una cosa basata su un algoritmo che tiene conto anche della condizione atmosferica fuori? Anche sì, tantissime variabili, appunto questo algoritmo studiato da startup Dynamitic, applichiamo il dynamic pricing per la prima volta al biglietto del cinema. Quindi, in breve, partendo da un range di 4,50 € fino a un massimo di 8,50 €, questo costo sarà determinato da numerose variabili, come diceva lei, il tempo anche, ma le richieste che avrà il film, la reputation su web, sui social, ma anche la partita di cartello che magari toglie un po' di pubblico al cinema, ecco. Insomma, tutte quelle variabili che possono incidere sulla presenza dello spettatore in sala. E questo algoritmo appunto tiene tutto dentro, anche per esempio il quanto tempo prima prenoto il biglietto, immagino, no? Assolutamente sì, guardi, ci sono addirittura 40 variabili, tra cui anche questo. Prima prenoto, prima avrò un prezzo vantaggioso, ecco. Che è lo stesso meccanismo dei low cost. Il vostro obiettivo di fatto è riempire la sala sempre, in sostanza, come gli aerei, come l'obiettivo delle compagnie aeree? Sì, riempire appunto l'invenduto in quei momenti in cui la sala rimane magari un po' più vuota e, come diceva lei, appunto le compagnie low cost. Il principio è quello. Per il momento solo il venerdì, se non sbaglio, no? Per il momento il venerdì, siamo in fase di test e poi verificheremo se estenderlo ad altre giornate, perché no, sempre. Magari ci risentiamo tra qualche tempo e ci racconta com'è andata. Grazie intanto a Salvatore Dattilo, titolare del cinema Plinius di Milano. Monica Bersanetti, buongiorno. Buongiorno. È maestra della scuola Rodari, Istituto Comprensivo Sanremo, Centro Ponente. È stata ospite la sua dirigente scolastica nei giorni scorsi per raccontarci della vicenda che i nostri ascoltatori ricorderanno. A Sanremo, una scuola elementare, ha sede davanti a un centro islamico. Nell'ambito delle lezioni di religione decidono di fare una visita in questo posto. 11 genitori dicono no, noi i nostri figli al centro islamico, e tra l'altro un centro islamico riconosciuto, perfettamente regolare e così via, non ce li vogliamo mandare. Com'è andata alla fine, Bersanetti? Ma è andata molto bene, siamo usciti con i bambini, siamo arrivati al centro, siamo stati accolti da tutti gli esponenti, insomma i vari rappresentanti di questo centro culturale. Poi abbiamo fatto una visita dentro a questa moschea, ci hanno dato la spiegazione dei vari luoghi, dei vari spazi che ci sono all'interno, a che cosa servono, così ci hanno fatto vedere anche l'angolo dove insegnano, c'è un insegnante che insegna l'arabo, quindi i bambini erano molto curiosi di sapere come si scrive una cosa, insomma il modo di scrivere che è completamente diverso dal nostro, quindi insomma è stata un'esperienza molto positiva. E gli 11 genitori non sono tornati indietro dalla loro idea nel frattempo, dopo che si è sollevato un po' di polverone mediatico, no? Sì, un po' di polverone mediatico, è stata poi l'occasione per fare un po' di confronto sul territorio, ma ci sono stati dei toni molto, molto dimessi, insomma, cioè, ognuno è legittimato a fare le scelte, le proprie scelte per i propri figli, quindi cioè, non vedo insomma tutta questa notizia, ecco, cioè, la notizia è che invece abbiamo fatto una cosa molto bella, sì, bisogna magari puntare un po' più sul valore insomma di inclusività, che è il nostro punto di forza del nostro istituto, e sull'apertura al territorio, quindi questo sfruttare l'occasione del territorio piuttosto insomma che su chi fa scelte legittimate da motivi suoi personali. Ma secondo lei i motivi quali erano? Oh, guardi, non voglio entrare nel merito, cioè io sono un insegnante, quindi cioè, io ho degli obiettivi didattici e non certo quello di andare a capire o a giudicare quelli che possono essere i motivi dei genitori. Certo che se ci saranno delle occasioni per confrontarsi con questi genitori non ci sarà nessun problema, insomma noi siamo qua e facciamo il nostro lavoro. E siete a disposizione. Grazie Monica Bersanetti, buona giornata e buon lavoro. L'infinita vicenda della A3, la Salerno-Reggio Calabria, ed è dunque in Calabria che ci spostiamo, porta ad un nuovo sequestro di un tratto autostradale che per fortuna non è stato chiuso. Meno di un mese fa ci fu la chiusura di un tratto della A3 nel Vibonese, dove si sono verificati due gravi incidenti che hanno causato la morte di 5 giovani. Adesso la Guardia di Finanza ha sequestrato per diverse irregolarità un altro tratto della A3 di circa 8 chilometri tra Mileto e Rosarno, a cavallo delle province di Vibo e Reggio. Sequestrato anche un tratto della strada provinciale 58 e una strada interpoderale. La procura ipotizza i reati di disastro doloso, falso ideologico e materiale per la concessione di lavori in subappalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante e truffa aggravata ai danni di ente pubblico per l'indebita percezione di pagamenti per smaltimento di rifiuti. Una ventina gli indagati, tra cui funzionari dell'ANAS e i referenti di un'impresa di Bergamo che ha realizzato i lavori. L'autostrada non verrà chiusa al transito, chiusa invece la strada provinciale 58. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.